Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Nuovamente insieme per la seconda parte di Voci d'impresa. Stiamo parlando di vino, della storia aziendale di una famiglia che al vino si dedica ormai da 7 generazioni. Nella vita di un imprenditore, soprattutto dove il rischio d'impresa è così alto come nella produzione del vino, si possono alternare momenti di esaltazione a momenti di grande sconforto. Abbiamo chiesto a Francesco Zonin di raccontarci qualcuno di questi momenti. Ma paura credo mai abbiamo avuto finora, devo dire fortunati. Lo sconforto, guarda, l'ultimo episodio di sconforto è di 2 anni fa, perché nel vigneto più storico da cui produciamo questo meraviglioso Reciotto di Gambellara, dopo veramente 364 giorni di lavoro in vigna, stavamo organizzando la vendemmia e la sera prima dell'entrata in vigna, ed era una raccolta splendida, avevamo dei grappoli meravigliosi, dorati, maturi, perfetti. È arrivata la più rossa grandinata che abbia mai visto nella mia vita, quindi in 34 anni. Siamo andati in vigna il giorno dopo, non c'era niente, né tralci, né foglie, né grappoli. C'era rimasto un po' di tronco della vite. Ecco. Una strada caratterizzata da grandi sacrifici. Possibile che, avendo le possibilità per fare scelte diverse, si possa decidere di intraprendere una strada più semplice a livello imprenditoriale. Invece il richiamo del vino ha colpito ancora come una passione da coltivare più che un dovere quotidiano. Certo, anche per il nostro padre non ci ha mai obbligato, ci ha sempre detto: fate quello che volete, fate quello per cui vi sentite felici. Quindi dopo l'università sono lavorato nel 98, sono partito per gli Stati Uniti e ho fatto un periodo all'interno di una società di comunicazione e marketing, devo dire una bellissima esperienza. Conclusa, sono entrato all'interno dell'ufficio marketing di un'altra grossissima società di spirits americana e lì comunque ho riapprocciato il mondo del vino, ci sono entrato innamorato perso e poi ho deciso che quella era la strada. Però devo dire, un po' è vero che l'ho respirata sin da piccolo, però non siamo mai stati forzati. Però il mondo del vino è un mondo che strega, per cui devo dire che forse il trucco è proprio quello. Una volta che si apre una finestra, che si vede da dentro, poi è duro uscire, perché non credo ci sarebbero tanti altri posti di lavoro in cui mi vedrei così felice o soddisfatto. Zonin, una lunga tradizione di viticoltori. Vini Zonin, un marchio conosciuto, riconosciuto come quello di un vino popolare, da tavola, quotidiano. Negli ultimi anni però l'azienda ha deciso di diversificare l'offerta producendo vini per tutte le fasce di consumatori. Come è cambiato allora il brand Zonin negli ultimi anni? Più che altro abbiamo diversificato la nostra gamma di prodotti. Il mercato del vino è un mercato amplissimo, come potrebbe essere quello dell'auto. Parliamo della 500, parliamo della Ferrari, è sempre un'automobile, è sempre 4 ruote, un volante, e lo stesso il vino è sempre frutto di una vinificazione di uve. Il prodotto però se ne trae è molto vario, il mercato è molto segmentato, abbiamo cercato di segmentare anche la nostra offerta, per cui negli ultimi 40 anni abbiamo cercato di riuscire a soddisfare il consumatore, che è molto variegato, con prodotti differenti, con qualità diverse e anche posizionamenti di prezzo differenti, per cui il vino a marchio Zonin, che è tuttora comunque il marchio di vino più noto in spontanea in Italia, si è evoluto insieme al mercato, per cui oggi siamo contentissimi della chiusura ad esempio delle vendite di Prosecco Zonin che abbiamo fatto quest'anno in Italia e soprattutto all'estero. Abbiamo fatto un lancio di un brand che si chiama Primo Amore, che firma i vitigni più importanti d'Italia, quindi la Chardonnay o il Merlot, il Verduzzo o il Nero d'Avola, per un consumatore che, proprio come dice il nome, Primo Amore, sta approcciando il vino, ha voglia di conoscere un vino comunque di qualità, magari non ha molta disponibilità di spesa, perché è un vino che si trova fra i 3 e i 4 euro in distribuzione in Italia. Comunque cerchiamo sempre di mantenere il corretto, ottimale rapporto qualità-prezzo. A questo si associa una diversificazione e qui molto più legata al territorio di ogni azienda agricola, va a posizionarci sul segmento medio-alto, quindi parliamo del Refosco o del Friulano, della tenuta Cabolani, che va magari un consumatore un po' più esperto, un po' più evoluto, che cerca un po' di più il vino di territorio. Poi all'interno della tenuta Cabolani c'è sempre un cru su cui puntiamo la gran parte delle nostre attività in vigna, su cui la cura diventa veramente maniacale, in cui l'enologo non dorme di notte quando bisogna andare a vendere vino e vinificarlo, che è la rappresentanza ultima e di elite di ogni tenuta. Quindi vale il Conte Bolani per la tenuta Cabolani, vale il Deliella, che è questo cru di Nero d'Avola del feudo Principi di Butera, vale il Masarei, che è un cru di Barbera in Piemonte, vale l'Acciaiolo, che è il Super Toscan di Castello d'Albola. Questo per un consumatore più evoluto, per un differente momento di consumo, che rappresentano appieno il territorio, il terroir in cui siamo inseriti. Per cui diciamo che il lavoro degli ultimi 40 anni è stato proprio diversificare per garantire ad ogni tipo di consumatore, ad ogni fascia di consumatore, un vino di qualità col corretto rapporto qualità-prezzo. Francesco Zonin, convinto della qualità dei prodotti di famiglia, ha deciso recentemente di metterci, tra virgolette, la faccia. Lo ha fatto come presentandosi come testimonial delle sue stesse campagne pubblicitarie, una ulteriore garanzia di riconoscibilità per un prodotto del quale è un onore assumere la paternità. Un passo dovuto soprattutto nel mondo del vino, che comunque fa parte del contesto del comparto alimentare. È un prodotto alimentare il vino, credo che la possibilità di comunicare al consumatore che alle spalle di una bottiglia di vino ci sia una famiglia che vi si dedica anima e corpo ed è talmente convinta e cosciente della qualità del prodotto che ha imbottigliato e è disposta a garantire la qualità del prodotto che si trova all'interno della bottiglia mettendoci la propria faccia. Questo credo si possa fare quando si è certi delle capacità e della qualità del prodotto. Noi siamo convinti di quello che stiamo facendo e della qualità che riusciamo a offrire oggi ai nostri consumatori. C'era bisogno di un messaggio di garanzia e, se mi permettete, anche di una certa continuità da qui a venire, perché credo che anche la continuità aziendale sia importante. Allora, riuscire a comunicare che c'è la settima generazione della famiglia Zonin che è vicina al consumatore, disposta a dedicarvisi anima e corpo, credo sia un messaggio altrettanto importante. Però tutto parte dalla qualità dei prodotti, dalla qualità che riusciamo a garantire al consumatore. La faccia, altrimenti credo un imprenditore difficilmente potrebbe metterla. E questa è una scelta che paga? Cioè, che tipo di feedback avete con il pubblico? Questa è una scelta che paga, spero di sì. I numeri sono buoni, abbiamo chiuso un ottimo 2008 sia in Italia che all'estero. Abbiamo cominciato circa 2 anni fa, quindi anche qui è una campagna che credo proseguirà nei prossimi anni. Non sono campagne molto impattanti perché il mondo del vino ha altri mezzi per comunicare e dispone anche di budget, se pensiamo alla Telecom o al mondo dell'auto, molto differenti. Quindi è una campagna che vedremo un po' di più sul medio-lungo termine. Però per adesso devo dire i dati sono positivi. Perlomeno, visto che coincideva anche con un lancio di una linea di prodotti come Primo Amore, devo dire che la linea Primo Amore sta andando molto bene. Essendo partita 2 anni fa, devo dire che i numeri sono veramente ottimi, figli anche questo, un po' della campagna ma soprattutto della qualità. Abbiamo i consumatori che una volta che scoprono questi vini, comunque vedo che li ricompra, la rotazione è ottima. Quindi un plauso soprattutto ai nostri enologi e al mio fratello. Si chiude qui anche questa puntata di Voci d'Impresa. Grazie a Francesco Zonin per essere stato con noi. Un cordiale saluto da Lara Vecchio.